C'è comunicazione quando due persone si scambiano un messaggio attraverso un determinato strumento che entrambi conoscono. Può essere il linguaggio, una parola, un gesto, un'immagine. Io in questo momento sto comunicando con voi e voi mi capite perché parlo in italiano. Ma se io ad esempio parlassi in cinese, se parliamo la stessa lingua riusciamo a capirci. Ma mica è detto che basti questo per capirsi veramente. Butto lì qualcuno di questi ostacoli possibili che possono esserci nella comunicazione. Li ho presi da questo libro di Roger Mucchielli, Apprendere il Counseling. Lascio il link in descrizione se a qualcuno interessasse approfondire il discorso. Avvertenza, l'elenco che faccio è abbastanza veloce e forse superficiale. Se vi vengono in mente altri ostacoli alla comunicazione, scrivetelo nei commenti, così completiamo un po' meglio il quadro. Uno dei primi ostacoli può essere dato dal fatto che noi molto spesso siamo più impegnati ad interpretare piuttosto che ad osservare. Dico bene o dico giusto che a volte mentre parliamo già abbiamo l'impressione di essere fraintesi, o viceversa, qualcuno ci sta parlando e il nostro neurone parte all'impazzata a cercare di capire il significato recondito di quello che l'altro ci sta dicendo, e con il risultato che praticamente alla fine non stiamo più ad ascoltare veramente l'altro. Osservare e interpretare sono due cose molto differenti e dobbiamo esserne consapevoli di questa differenza, il che equivale a chiederci: siamo veramente capaci ad ascoltare? Un secondo fattore potrebbe essere il coinvolgimento personale. Supponiamo che venga un tuo amico e cominci a parlarti male, dicendoti peste e corna di una persona che tu neanche conosci. Lo ascolti e non ti interessa più di tanto. Ma a un certo punto quel tuo amico inizia a parlarti male di tuo figlio. Ah no, toccatemi tutto, ma non mio figlio. Non appena ti accorgi che stanno parlando male di tuo figlio, il tuo cervello va subito in confusione, ti sale rabbia, frustrazione, a volte vorresti spaccare tutto, oppure cerchi una giustificazione per il suo comportamento. Sei coinvolto, tutto lì. Ciò che ti viene detto, fai fatica a percepirlo così com'è e lo rivesti di tutto un insieme di significati personali. Stesso discorso per la gelosia o la paura del buio. Sei geloso? Vedrai ovunque conferme del fatto che sei nel giusto ad essere geloso. Hai paura del buio? Qualunque rumore diventerà per te un pericolo incombente. Hai poca autostima? Qualunque frase, detta anche senza un significato particolare, diventerà per te una conferma del fatto che vali poco o sei inadeguato. Terzo fattore, le nostre opinioni, ciò che crediamo, i nostri preconcetti. Sono tutte cose che diventano un po' come una lente attraverso la quale noi vediamo il reale, ma lo interpretiamo, in qualche modo lo deformiamo. Se una persona che mi è simpatica fa una battuta su di me, ci facciamo insieme una risata. Viceversa, se la fa una persona che non sopporto, mi incavolo come una bestia, oppure rimango magari dentro di me a rimuginare per ore quello che ho sentito. Stesso discorso in caso di opinioni verso determinati gruppi sociali. Se una persona di quel gruppo dice o fa una cosa, l'opinione che mi farò di quella cosa sarà influenzata molto dall'opinione che avevo nei confronti di quel gruppo. Quarto aspetto, la deformazione professionale. Quando ad esempio tu che sei militare, psicologo, prete o dottore, tendi a ricalcare certi schemi di pensiero in ogni aspetto della tua vita. Ad esempio sei un militare, al mattino svegli i tuoi figli e pretendi che in 10 secondi netti abbiano fatto il letto e siano già sull'attenti per l'ispezione. Ovvero quando non riesci a staccarti dal tuo ruolo in quelle situazioni in cui semplicemente non ti è richiesto di essere sempre in quel ruolo. Quinto ostacolo, l'incapacità di separare il significato razionale di una cosa da un significato più profondo. E qui Mucchielli cita un esempio fantastico preso da Carl Rogers, un bambino che dice a suo papà: «Papà, tutti i miei compagni hanno una bicicletta». E il papà gli risponde: «No, figlio mio, è impossibile. Sicuramente qualcuno di loro non ce l'ha». Che cosa è successo? Il papà non è riuscito a capire che dietro a quella frase c'era un significato più profondo. Il bambino in realtà voleva dire: papà, vorrei una bicicletta, papà, vorrei essere come gli altri, papà, non ho il coraggio di chiederti direttamente di comprarmi una bicicletta. Se poi si è arrabbiati, a volte diventa ancora più difficile cercare di comprendere il significato più profondo che c'è dietro a una frase di una persona che mi sta parlando. E poi potrebbero esserci tanti altri ostacoli: il nostro vissuto, la nostra famiglia di appartenenza, la storia che ha segnato la nostra vita. Sicuramente ci sono ancora tanti altri ostacoli che non ho detto. Scriveteli nei commenti. E nel frattempo ecco un piccolo compito per oggi. Pensate ad una persona nei confronti della quale avete problemi particolari di comunicazione. Provate a pensare se ci sono ostacoli particolari che rendono più difficile il capirsi, il comprendersi. Direte: e una volta che me ne sono accorto? Beh, credo che sia già importante il fatto di rendersene conto per poter poi cercare di modificare il nostro atteggiamento e la nostra capacità, il nostro desiderio di comunicare in modo più profondo, più vero con quella persona. Lascia un commento, lascia un mi piace se il video ti è piaciuto, condividilo e ricordati, se ancora non l'hai fatto, di iscriverti al canale.